13 agosto 391. Verso il Serapeo si odono grida e clamor di folla. Incito il ronzino con un grido, ma la strada è in salita e il povero animale non ce la fa, quindi chiedo a Zosimo di guidare lui il carro. Salto giù, comincio a correre, raggiungo la vetta della collina, il piazzale del tempio e non mi fermo. Davanti al Serapeo una folla immensa grida disperata. Mi faccio largo tra la folla, raggiungo la prima fila, trafelato, e lei è lì, in piedi, accanto a Teone e ai tre filosofi sacerdoti che sono inginocchiati, accanto ai pazzi, a tutti i miei compagni del centro studi. La raggiungo, le sfioro un braccio, lei gira il capo, ha il viso stravolto, negli occhi un'ansia cupa. Le chiedo cosa sia successo, devo urlare perché mi senta. Protende il braccio e mi indica un punto oltre i sacerdoti. Sui tre gradini di marmo, gettati alla rinfusa, oggetti d'oro e d'argento, tabernacoli di granito, piccole statue di Osiride, di Iside e una testina di Giove Serapide deposta su delle grosse feci. Olimpio si avvicina, la solleva con delicatezza, la pulisce con la sua tunica celeste, sale i tre gradini, protende le mani che stringono la statua. Il clamore si spegne e il suo volto è distrutto dal dolore. Quando il silenzio cala sulla piazza, stringe l'oggetto sacro al cuore. Mai il nostro Dio ha subito una simile umiliazione, mai la nostra religione è stata calpestata in questo modo. La sua voce trema di emozione. Ho parlato con il capo delle guardie prima che abbandonasse il Serapeo. Ha ammesso che coloro che questa mattina si sono introdotti nel tempio avevano il permesso del prefetto Augustale e del vescovo Teofilo, erano cristiani. Un urlo spaventoso si leva dalla folla, si diffonde contagioso. A morte! A morte! Olimpio riesce a riportare il silenzio. No, no, è proprio questo lo scopo di Teofilo: calpestare i nostri sacri templi, esporre gli oggetti di culto che per generazioni noi sacerdoti abbiamo custodito, per esporli allo scherno di chiunque, per strada, sulle feci umane. E pulisce ancora una volta la testina di Giove Serapide. Quando giunsi qui dalla Cilicia 5 anni fa, giurai di servire fedelmente i nostri dèi. E solo la morte mi impedirà di continuare a sacrificare. L'abbiamo fatto di nascosto, in attesa che l'imperatore ci ripensasse, che tornasse indietro, ma ora basta. Invece di rispondere con la violenza, noi adesso occuperemo il tempio. E io continuerò a sacrificare al Dio, secondo l'antico costume, ogni giorno. Si gira e si avvia. La folla applaude, Eladio e Ammonio raccolgono gli altri oggetti sacri e lo seguono. La gente è disperata. Prende a scalare i 100 gradini che portano al tempio, mentre una parte della folla si ferma a presidiare la scala. Dalla strada in fondo vediamo giungere il carro guidato da Zosimo. Teone s'appoggia alla spalla della figlia, lei cerca i miei occhi con lo sguardo incupito da un sorriso sconsolato. È l'inizio della fine, Shalim. Teone scuote la testa, il dolore sul volto. Conosco bene gli Alessandrini. Scorrerà il sangue, ed è proprio quello che vuole Teofilo, per farla finita una volta per tutte con noi e con gli ebrei. Giunge Zosimo, gli racconto l'accaduto. Allora dobbiamo sbrigarci a evacuare la biblioteca. Sulla faccia arcigna compare un lampo d'estrema malinconia. Noi non getteremmo mai una croce per terra o in mezzo alle feci. Come hanno potuto giungere a tanto? Mentre Nicandro e Valeria lasciano il gruppo degli studiosi e si avvicinano a noi, dalla scala a cui si accede al tempio scendono precipitosamente degli uomini. Sono una decina. Facce minacciose corrono verso i cavalli. Nicandro riesce a trattenerne uno a pochi passi da noi e gli chiede dove stiano correndo. L'uomo, grosso e dal faccione scuro, si libera dalla presa del nostro compagno. Ora conosciamo i nomi di chi ha fatto tutto questo e si lancia al seguito degli altri. Zosimo prende Teone sotto braccio e insieme si spingono verso il portico. Ipazia cerca il braccio di Valeria e il mio e tutti assieme, compreso Nicandro, Ausenzio, Esichio, Olimpio, David, Samuele, Erculiano e Ottavia, seguiamo i due vecchi. Dalle finestre in alto cadono rettangoli di luce impregnati di polvere. I pazzi accerca gli occhi di Valeria, poi i miei. Era questo che annunciavano i corvi. Le sue falangi mi stringono il braccio con disperazione. E il destino del nostro centro e di tutta la biblioteca è più che mai legato al tempio. Gli avvenimenti stanno precipitando. La cosa più urgente è evacuare la biblioteca. Cominciamo oggi stesso, sei d'accordo, Ipazia? Ma il mio tentativo di infonderle fiducia svanisce dinanzi ai suoi occhi accigliati. Scuote il capo, lasciando trapelare tutto il suo rammarico. E invece di studiare, siamo costretti a fuggire. Certo, Shalim, certo che sono d'accordo. Ma ti rendi conto delle dimensioni di questa biblioteca? Hai un'idea di quanto tempo ci vorrà? E poi mica potremo tenerla in eterno nella nave di Zosimo. Proprio in questo momento il vecchio commerciante si ferma e si volge verso di noi, mentre abbiamo raggiunto la fine della prima navata. Non c'è una sola nicchia vuota. Oh, Atena, indicaci tu la strada, questa biblioteca è enorme. Ficca i suoi occhi in un loculo, fruga con ansia, rovista in quello accanto, si china, cerca in quello inferiore, sfila dei rotoli, li esamina, li ripone. Poi si rialza, con una mano si tormenta i capelli arruffati e lo sconforto si insinua tra i lineamenti arcigni. Originali e copie sono mischiati. Ah! Nella stessa nicchia ci sono testi importantissimi e rotoli di poco conto, anche se sono divisi per materie, anche se daremo la precedenza ai testi scientifici, ci vorranno mesi per fare una cernita. La sua voce è particolarmente accorata e ci vorranno mesi per trasportarli. Mi fissa con occhi disperati. E una volta caricato il tutto sulla mia nave, dove fuggiamo, Shalim? Ormai è chiaro che è stato sancito un patto di sangue tra Chiesa e Impero. Anche se gli eventi stanno precipitando, dobbiamo ragionare. Troppo grande è il nostro compito. Cerco gli occhi di Teone. Signore, io propongo di lasciare a guardia delle entrate del portico due di noi, a turno, a partire da adesso, fino a evacuazione ultimata. E poi penso che sia il caso di raggiungere subito la nostra sala per decidere ogni dettaglio dell'operazione. Sì, lo penso anch'io, figliolo. Non posso obbligare nessuno di voi a fare la guardia, ma sarebbe un'operazione saggia. E prendendo sotto braccio Zosimo, senza perdere tempo, si avvia per il portico. Ausenzio fa un cenno ad Esichio e mi esorta a non partecipare ai turni. Shalim, occupati solo dei rotoli e non perdere mai di vista Ipazia. E lancia un'occhiata carica di emozione alla nostra maestra, ma lei è distratta, assorta nelle sue riflessioni, come le accade ogni tanto, con occhi che sembrano appannarsi, sguardo immerso in un altro mondo. Ci avviamo. Prendo sotto braccio la mia maestra, mi isolo dagli altri, richiamo la sua attenzione e riesco a farla tornare su questo mondo. I suoi occhi brillano di nuova energia. Ipazia, chi è a conoscenza dei sotterranei? Teone, io e te, naturalmente. E volendo potremmo ammassarci dentro altri rotoli, 30-40 mila, ma al punto in cui siamo forse dovremmo dirlo anche agli altri. No, no, no, no, Shalim, il segreto di questi sotterranei e di quelli del faro lo serviamo solo noi tre. Mi blocca il braccio, mi impedisce di procedere. Shalim, ci affanniamo tanto a nascondere dei rotoli di papiro e di pergamena. È giusto, dobbiamo farlo, ma dobbiamo triplicare i nostri sforzi nella trasmissione del nostro pensiero. È qui dentro il segreto. Io voglio trasmetterti tutto quello che so e tu devi portare la mia luce nella tua mente. E a tua volta la devi trasmettere a un altro. Nessuno, Shalim, può fermare questa catena. E finalmente le ombre abbandonano il suo volto. È l'ora ottava. Ho lasciato da poco la biblioteca dove, sotto la direzione di Teone, tutti sono impegnati nell'operazione di cernita. Zosimo è andato a far visita alle autorità cittadine per tentare di ottenere un piano dell'edificio del faro, oppure il pritaneo ormai abbandonato o anche uno dei tanti edifici termali inutilizzati. Abbiamo deciso di trasportare i rotoli dentro i sacchi di juta. Chi ne aveva una piccola scorta era Shai. E per questo sto recandomi da Zev sul dorso del ronzino. Decido di percorrere via del Somma per vedere se sta succedendo qualcosa. Ipazia mi precede sul cavallo nero. Vuole recarsi dal prefetto affinché possa perorare la causa dell'assegnazione di nuovi locali per la biblioteca. C'è una strana tensione nell'aria. Sotto i portici c'è gente come mai. Dappertutto capannelli. Si sente discutere, qualcuno urla. Sembra che tutta la città si sia riversata per strada. Non si sente parlare d'altro. Gli oggetti sacri di Serapis gettati sulle feci fuori del tempio. L'imperatore non lo doveva permettere. Teofilo la deve pagare. Stanno dando la caccia ai cristiani che hanno commesso questo crimine. Qualcuno urla, fugge. Cerco di abbandonare il viale, ma non ci riesco. Ipazia si intrufola nella folla. Le grido di non allontanarsi da me. Ma ogni strada trasversale è piena di gente. È possibile avanzare solo per via del Soma. Il cavallo è spaventato. Guardie imperiali circondano i capannelli più rumorosi. A fatica raggiungo via Canopica e qui, proprio al centro dell'incrocio, sul podio della tomba di Alessandro Magno, sul marmo bianco, decine di cadaveri immersi nel sangue. Oh, è la fine. Il cavallo di Pazia viene circondato dalla folla che l'ha riconosciuta, che l'acclama. La gente vuole che lei si rechi direttamente a Costantinopoli dall'imperatore. Ipazia non riesce a staccare lo sguardo dai corpi dei cristiani, massacrati e sgozzati, accenna a voler scendere. In fondo a Via del Soma scorgo una pattuglia di guardie che si fa largo tra la folla. Riesco ad affiancare Ipazia, a trattenerla sul cavallo, ma è sconvolta. Non fermarti, non fermarti, stanno arrivando i soldati. Ipazia, non puoi rimanere invischiata in una guerra di religione. Lo hai deciso poco fa assieme a tuo padre. Urlo per sovrastare il clamore della folla. È stravolta. Questa gente ha bisogno di noi. Forse possiamo fermare altre stragi. La sua voce è accorata. Ipazia, se le guardie ti arrestano qui ora, per Teofilo sarà facilissimo mettere in testa al prefetto che sei stata tu a trascinare la gente alla rivolta. Vieni via, ti scongiuro. I soldati si avvicinano. Ipazia non riesce a decidersi. Mi chino, afferro le briglie del cavallo nero. L'animale resiste. Cerco di trascinarlo con me. Grido alla gente di farci passare. Ipazia scuote la testa. Non vuole abbandonare quella moltitudine che la invoca. Ma anch'io la scongiuro e così alla fine si decide a dare al cavallo il segnale con i piedi e l'animale comincia a seguirmi e a fendere la folla. Riusciamo a superare lo sbarramento umano. A svoltare per una stradina laterale, facciamo un lungo giro attorno al ginnasio e alle corti di giustizia, lungo il parco di Pan, poi dalle mura e dal canale torniamo indietro sino a Via del Sole. Balzo di sella per primo, sono ai suoi piedi. Aspetto che anche lei scenda. Nei suoi occhi ancora vivo il miscuglio di paura e di emozione che l'ha stravolta. Si lascia scivolare tra le mie braccia, si rifugia tra le mie braccia. La sua guancia è infiammata sul mio collo, il nostro respiro affannoso che tarda ad acquietarsi. Attacca il nostro carro al tuo cavallo, Shalim. Voglio venire anch'io alla biblioteca. Posso aiutarvi? La voce dolce di Zev è diventata grave dopo il mio racconto. Si stropiccia la chippa da cui fuoriescono folti capelli biondi. Adesso c'era bisogno di mio figlio e mio nipote, e invece se ne vanno in giro per il mondo a caccia di buoni affari. Poco dopo attraversiamo i resti delle mura e del canale e raggiungiamo Via del Sole. Epicrate sta chiudendo una cassa di legno, ci scorge e rientra in casa e di lì a poco dal vicolo della luna, dove è situata la stalla, spunta con il cavallo nero. Ipazia esce dalla porta principale e viene a salutare Zev. Sul volto e negli occhi porta ancora i segni del conflitto interiore di 2 ore fa. Forse è meglio che io abbandoni l'idea della visita al prefetto per perorare la causa dei locali al faro. Se non ci riesce Zosimo con le autorità cittadine, penso che sia inutile prostrarsi ai piedi di Evagrio. È una nullità, Duomo. Vieni con noi, Pazia, torna alla biblioteca. Ma senza passare per le strade del centro, penso sia più prudente fare tutto il giro delle mura e dei canali. Cerco di leggere nei suoi occhi l'accordo. Sulla mia proposta, sul bel volto appare un sorriso amaro, poi si gira, s'arrampica fiaccamente sul cavallo e ci precede. Epicrate ci porge la piccola cassa e ci avviamo dietro ai Pazia. Mio povero Shalim, il tuo cuore è così puro che non potresti mai mascherare i tuoi sentimenti per quella splendida creatura. E Zev mi fissa con un sorriso di comprensione sul volto. Perché hai adoperato l'espressione mio povero Shalim? Il mio cuore ha preso a battere forte e lo fisso solo con la coda dell'occhio. Perché credo che Ipazia seguirà un cammino diverso da tutte le altre donne. Penso che nella sua vita ci sarà posto solo per il centro studi. Eppure, poco fa, stava per mettere in pericolo il suo futuro di scienziata a causa dell'amore per la sua gente, dietro la spinta delle emozioni umane. È ancora troppo giovane. Ma le battaglie a cui ci stiamo preparando per difendere il cammino del sapere non faranno altro che fortificare la sua dedizione alla ricerca e allo studio, tenendola lontana dalla quotidianità dei comuni mortali. Non faccio nulla per approfondire l'argomento. Cambio discorso e chiedo a Zev un suo giudizio su quanto è accaduto oggi al Serapeo. Mio caro Shalim, chiunque penserebbe che l'obiettivo del vescovo sia stato quello di colpire il tempio più importante degli Elleni, il sacro tempio dei pagani. Ma io non ci credo. Ad Alessandria ci sono almeno altri 40 templi, no? Non mi convince Teofilo. Ha attaccato il Serapeo perché sotto c'è la biblioteca. Lui ha paura dei codici e dei rotoli, teme la diffusione della conoscenza. È la biblioteca il vero obiettivo. La voce di Zev è grave. Poco dopo raggiungiamo la collina di Rakotis. La piazza continua ad essere gremita di gente. Ipazia smonta da cavallo e si avvia con l'animale verso il retro del tempio.